Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. E allora, caro Oscar, eccoci qui alle 8:19 minuti. Eccoci in questo 11 gennaio, schedati, ascoltati, spiati, intercettati. Ah, sei schedato? No, beh, però tu di sicuro, vabbè. Che c'entra? Io sicuro. Di sicuro? Sì, sì, sì, ma guarda. No, capisci che questi grandi intercettoni di provincia, sia pure col master, sì. Tecnologico, e siccome sei un noto conduttore, ma ti chiami Milan, allora esatto, Milan immaginano finisce, che dietro, dentro c'è qualcosa. C'è di sicuro qualche cosa, di sicuro. Comunque, allora, Santi. Santigino, Papa. San Guardone? No, non c'è. No, però c'è un santo che io devo richiamare per forza, che è un re di Scozia, si chiama David, San David I, e devo richiamarlo perché naturalmente deve la sua santità alla mamma, che era Margherita di Scozia, regina santa. E quindi lei, per traslato lei, no, oggi per traslato è un santa Margherita. Anche oggi, come vedi, capita a molti di essere intercettati da potenti organizzazioni. Io sono intercettato da mia moglie da sempre, sì. Che è un'organizzazione molto più temibile, ma... Ma lei ti guarda negli occhi e già ti ha intercettato. Lei ha tutte le mie password, sa, quindi poi... No, ma poi basta che ti guarda negli occhi e ti ha già intercettato, così ti fa la radiografia. No, ma siamo naturalmente alla telecinesi, alla telepatia, a tutte le tecniche di controllo a distanza, questo non c'è dubbio, io lo riconosco e lo dichiaro volentieri, cara Santa Margherita, che mi sopporti. Cosa è avvenuto oggi? Vedrete che arriveremo tra pochi secondi all'avvenimento centrale della storia. Ci sono alcuni precedenti, di uno certo, per esempio Catania nel 1693 fu stesa al suolo da un terremoto che fece morire 50.000 persone, E poi ci sono due eventi, secondo alcuni, un po' misteriosi, perché il primo parto esagemellare nel 1974, attestato in Sudafrica, e pensate, sei anni dopo, nello stesso giorno, il secondo parto esagemellare in Italia, i famosi sei gemelli Giannini, se te li ricordi, nello stesso giorno. Quindi è un giorno su cui nella storia si sono... Non dirlo, che poi quelli che credono agli oroscopi, perché poi alla fine c'è l'evento degli eventi, oggi, cioè? Perché oggi è il compleanno... Direi tu, del direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, sì anche, no, oltre a questo, auguri direttore, è il compleanno di Matteo Renzi. Abbiamo voluto omaggiare quei geniacci di Radio Rock che lo hanno fatto cantare, presidente, auguri. Risalendo vedrai, mio Dio, quanti cadono giù. Senti come prende il microfono subito. E per loro tu puoi votare sì. Schiero, presidente, rivisitata. Certo, qualche problema di intonazione c'era, forse ha contato poi nel risultato del referendum. Rivisitata. Comunque. Poi hai detto presidente, in realtà presidente Gentiloni, sai che hai letto Iena, quel farabutto di Iena, che dice Gentiloni è caduto in depressione perché nessuno lo intercettava. Però la grandezza democristiana rispetto al potere esibito che attira le intercettazioni. Questo occhio nero della massoneria. Occhio nero, ci sono tutti gli elementi per insomma, per un grande classico. Cioè ha riattivato e rilanciato in chiave tecnologica il bis del vorrei comandare il mondo a metà tra Ugo Tognazzi, Gelli e cose di questo genere. Però naturalmente invece ci sarà giustamente chi dice vediamo di che si tratta, di quale potenza straniera. Però io un certo retromondo romano, sia pure per carità onusto di credenziali internazionali e di master e di impieghi all'estero, tra l'altro è stato anche per anni in MPS a selezionare i portafogli dei clienti, pensa un po', in MPS prese il suo algoritmo per attivare una linea di trading addirittura. Vabbè, ma non lui, quindi l'algoritmo che lui ha fatto, perché era un ingegnere. Anche lui è stato il consiglio di amministrazione di una delle società di MPS per 2 anni, pensa un po' che personaggetto. Comunque hanno arrestato questi fratelli. Corriere della Sera ricorda che da giovane è cresciuto sotto l'ala di il Mr. Walt finanziario di Silvio Berlusconi, Ubaldo Livorsi. Però sono un personaggio di quelli. No, bisognerà capire, questa è la cosa seria. Questi due fratelli, lui massoneria e ingegnere, lei soprattutto descritta come una runner, comunque una manager e anche una maratoneta, una donna che è salti di Roma per passione, conosciuta, ammirata, corteggiata. Perché hanno raccolto 18.237 dossier, diciamo così. Perché volevano curare un libro di corrispondenza amorosa, stavano studiando i comportamenti sociali delle donne che si separano dagli uomini. Ma che... No, bisogna vedere. Comunque diamo il numero di telefono 800 24 00 24, perché noi oggi, Oscar, vogliamo continuare anche un po' in questa Italia degli imboscati, eh? Tu hai letto la tua eroina personale del giorno, io ho letto la sua lettera in rassegna stampa, questa preside di io Padova. Io propongo a tutti, cari ascoltatori, di considerare la professoressa Nadia Vitale, che è dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Severi di Padova, di cui trovate oggi una lettera che ha scritto a un professore che ha segnato in cattedra dall'inizio dell'anno scolastico a settembre, come decine di migliaia di altri con la buona scuola. Non si è presentato, ma fin dal primo giorno ha eccepito ragioni familiari, si è preso il congedo e quindi la dirigente ha dovuto cercare una supplente ennesima, eccetera eccetera, e la supplente poi è stata mandata a casa perché il 23 dicembre, il giorno prima di Natale, si ripresenta il professore che dal giorno dopo ripiglia il congedo e la dirigente, senza mancargli di rispetto, gli scrive una lettera in cui però c'è tutto quello che un dirigente scolastico deve scrivere. Soprattutto c'è la domanda, ma perché si è presentato a scuola un giorno? Lo sappiamo tutti perché, ma lei glielo chiede, questo, senza mancargli di rispetto. Dai, dice, caro imboscato del piffero! E soprattutto dice, si presenti ai genitori, agli studenti e spieghi perché si è presentato un giorno solo per chiedere il congedo. Attenzione, cari ascoltatori, voi adesso potreste dire, no, che ne sapete? Perché fa il demagogo Giannino del Campo? Potrebbero dire, al suo diritto. Certo, ma state attenti, in questo caso ti prende il congedo, ma lui venendo l'unico giorno e facendo decadere naturalmente la supplenza annuale, si tiene la cattedra. Se hai il tuo diritto al congedo, resti in congedo. Chiaro. E devi pensare però che l'offerta formativa ai ragazzi di quella classe incolpevole deve essere offerta da chi si prende carico di loro per un intero anno. Se invece pensi, no, io voglio il congedo, il diritto e anche il posto, anche se non lo non occupo, guardate, anche se ha il suo diritto, sbaglia ed è improprio anche comportarsi perché così. La dirigente fa sapere che la supplente era apprezzatissima. Esatto. E poi, tornando un giorno, per questioni di legge, ha fatto decadere questa supplente, appunto, che non può essere più richiamata, appunto, per appunto, legge. Appunto. Quindi bisogna trovare ora un altro supplente, appunto, che chissà se sarà all'altezza, poi inizierà a metà anno. Siccome io ieri ho fatto una trasmissione pomeriggio con il segretario della CISL scuola, tra l'altro leggete le due pagine terrificanti su cosa avviene al vertice nazionale della CISL sul Corriere della Sera, con dossier incrociati, accuse, il sindacato. Detto questo, siccome ho fatto questa trasmissione in cui era chiaro dal capo della UIL scuola, noi non accetteremo mai questo finto premio di merito della scuola, che è fallito anche per questo. Persino al liceo Parini protestano perché non hanno, i pochi che però non hanno visto assegnato. A Torino, la barriera di Milano, alcuni insegnanti lo danno agli studenti. Ho capito, però capisci che è come dire che loro non accettano di essere valutati. Dai, su. Vabbè, ho capito. Allora, siccome però questa almeno, è la scuola almeno, italiana, viva la dirigente di Padova. Ci fosse gente così, la scuola sarebbe migliore. In ogni caso, abbiamo anche scoperto che ci sono, come vanno definiti bene politically correct, operatori ecologici. E dai, su. Vabbè. Al comune di Palermo, al comune di Palermo ci sono operatori ecologici scopini, ecco. Scopini, secondo me si equivoca, però vabbè. No, che non che hanno una inidoneità a fare spazzare. Salutiamo l'assessore, mannaggia, l'assessore all'ambiente del comune di Palermo è Sergio Marino. Buongiorno assessore Marino, grazie. Buongiorno a voi. Buongiorno. Vogliamo salutare anche invece a Milano, in questa unione che facciamo, perché abbiamo scoperto che ci sono i vigili urbani a Milano, come a Roma, allergici alla divisa. E come si vede, non è solo nord-sud, non è nord-sud la questione. No, è ovunque. Nella PA è universale. Il comandante dei vigili urbani di Milano, Antonio Barbato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Non le chiederemo di toglierci multe, stia tranquillo. Giuriamo, lo giuriamo. Ma è vero che un ghisa su sei, si chiamano ghisa a Milano dal vecchio cappellone, cioè un ghisa su sei ha un certificato di inidoneità a star nel traffico? Assolutamente sì, ci sono una serie di inidoneità parziali, occorre dirlo, che magari sono state determinate o da un infortunio sul lavoro, tipo un investimento. Noi abbiamo un agente che è stato, come dire, è stata rotta una gamba durante un investimento volontario, piuttosto che altre situazioni del genere, ma poi ci sono proprio patologie, chi ha avuto l'infarto, chi ha il diabete. Purtroppo è un corpo che è invecchiato moltissimo perché c'è una cronica impossibilità di assumere come si assumeva qualche anno fa, e quindi superati, c'è una media di oltre 50 anni il nostro corpo, quindi è ma è la media della PA in generale in Italia, purtroppo. Assolutamente. Però sì, giustamente se uno ha avuto un infarto. Quindi lei ci dice che la percentuale, per quanto elevata, è certificata anche da indagini che avete fatto, per cui tutto in regola, tutti hanno pieno diritto all'individuo. Attenzione, cioè ci sono imboscati, comandante. Io credo che, come in tutte queste situazioni, poi bisogna fare un ragionamento molto, molto serio. Allora, ci sono sicuramente persone che vanno salvaguardate perché voglio dire, hanno dato una parte della loro vita a questo lavoro e quindi sono rimaste ferite piuttosto che. Poi ce n'è una parte che, secondo me, può essere impiegata, come noi facciamo, perché i nostri sono comunque tutti impiegati in polizia locale, nella videosorveglianza, per esempio, che è uno dei temi che è molto importante a Milano per il controllo del territorio, quindi diciamo che fanno la polizia virtuale. Poi ce ne sono una parte che secondo me vanno indagati, e sono coloro che magari un pochino ci marciano. Detto questo, noi abbiamo un provvedimento in questi giorni che adotteremo immediatamente, che era già un po' nelle nostre corde appena siamo arrivati, io da poco e l'assessore Rozza da poco, a fare io il comandante e l'assessore, per un provvedimento che faccia in modo che queste persone lavorino in orario d'ufficio. Questo che cosa comporta? Comporta innanzitutto che non avranno le stesse indennità che hanno i colleghi che lavorano fuori, quindi questa premialità per chi lavora fuori sarà riconosciuta, e dall'altra parte non potranno effettuare straordinari, che sono, quindi speriamo che almeno quella parte che magari ha avuto sì un problema ma la sta tirando un po' per le lunghe, a questo punto decida di rientrare nei ranghi. E qui, comandante, ci vorrebbe anche una domanda sul ruolo dei sindacati. Premessa, però, va spiegato che il comandante Barbato, questo si può dire, è stato un sindacalista, no? Ha avuto ma proprio per questo io lo dico, perché guardi, io ho fatto sindacato tanti anni fa, e le dico anche che non ho mai preso un permesso sindacale per fare la mia attività, lo prendevo come un fattore di volontariato. Però perché ha sbuffato quando gli ho detto i sindacati? Ha fatto dico perché fortunatamente anche questo problema in questi giorni è stato sollevato anche da alcune sigle sindacali, devo essere onesto. Poi ci sono ovviamente iscritti al sindacato che vanno dal sindacalista di riferimento, che spiegano tutte quelle che sono le loro condizioni, e loro giustamente tendono a difendere il lavoratore perché è il loro mestiere. Io però devo difendere il mio corpo e devo difendere soprattutto i cittadini. Ma il cittadino deve difendere una ragione e una bandiera, poi i cittadini che pagano vogliono anche capire le cose come stanno. Domanda secca, perché è stato anche ex sindacalista. Quello che è attestato in tutta la pubblica amministrazione, e cioè che ciascun sindacato in ogni branca, ente pubblico, amministrazione pubblica, difende i propri in idonei o in congedo, eccetera eccetera, e quindi ovviamente ciascuno pesa anche per questo. Risulta vero o è una calunnia messa in giro dai giornalisti? No, io dico che c'è anche qui una proporzione. C'è chi fa il sindacato perché ci crede, lo fa e si sbatte, scusatemi il termine, dalla mattina alla sera. Poi ci sono coloro che utilizzano il sindacato per avere, come dire, un po' di prebende. Allora, a quel punto il numero degli iscritti che hanno è sicuramente importante per, come dire, contrattare all'interno del sindacato posizioni. Vabbè, diplomaticamente, ma diplomaticamente ci sono. Vogliamo andare a Palermo, all'assessore che gentilmente ci sta ascoltando, Sergio Marino, per un'altra storia, insomma quella degli scopini, e ci dica lei le percentuali, le ho lette su Repubblica, ma ce le ricordi, insomma quanti sono, qualcuno può dire imboscati, lei dirà no, magari hanno legittimamente presentato un certificato medico, assessore. Come la no, guardi, ci sarebbe da dire mal comune mezzo gaudio, ma c'è poco gaudio da affermare. Un ponte Milano-Palermo. Posso, il comandante dei vigili, guardi, ricalca precisamente la situazione di Palermo. Guardi, il lavoro di operatore ecologico è certamente un lavoro difficile, perché stare per strada con qualunque tempo, in qualunque condizioni, e con un apparato che ormai anche lì è invecchiato molto, è chiaro che poi lo spazzino, l'operatore ecologico, trova quello che magari è un po' più fannullone degli altri, trova le strade adatte per poter evitare di affaticarsi troppo, e quindi lì magari va a marcare visita il medico competente, probabilmente non avendo elementi per poter scoprire particolari situazioni che non sono poi di disagio tale da comportare l'allontanamento dal lavoro, attribuisce l'inidoneità parziale. E quindi questo e quante sono la percentuale di quelli che non però possono? Capite, guardi, che scusate un secondo, perché io poi mi tocca far questo. Sentendo voi, cioè le percentuali multiple nel lavoro pubblico di inidonei alle mansioni per cui sono stati assunti, oppure legge 104 e così via, è una specie di descrizione, la ragione per cui ciò avviene e non può essere accettato dal lavoro privato, dai lavoratori privati, che siano multipli nel lavoro. Invece, sentire voi, è tutta una cosa completamente, che si spiega completamente, anzi, la cui vera risposta è assumiamone di più, perché ovviamente questo state dicendo entrambi. Vi rendete conto che per i nostri ascoltatori è difficile, molto difficile, per chi fa il lavoratore privato, credere al fatto che gli operatori, naturalmente, poverini, il medico, lei dice, non ha gli strumenti per capire, quindi alla fine certifica. Oh, ma la firma di una certificazione medica non è di qualcuno che ci si aspetta che non abbia gli elementi per aver approfondito. No, sbaglio io? Ma guardate che il sistema ormai, anche del comparto della sanità, se guardate quello che succede anche negli ospedali, i medici oggi stanno molto attenti ad assumersi le responsabilità e probabilmente assumono posizioni molto di cautela rispetto a un soggetto che marca visita, che dice che ha mal di schiena, che probabilmente gli attribuisce 2 mesi di indennità per stare tranquillo e per evitare che poi succeda qualcosa. Queste cose dobbiamo dirle. Bisogna anche dire che il sistema del lavoro, il comparto del lavoro che ha conquistato il sistema della 104, dell'allassamento materno e paterno, della inidoneità, della garanzia del lavoratore, che è benedetta, voglio dire, in un paese però democratico, viene purtroppo utilizzata da qualcuno. Ma male, mi dica, perché giustamente, come diceva anche Oscar Giannino, cioè, di fronte a questo c'è quasi la sensazione di dire non possiamo fare nulla. Cioè, lei, assessore, cosa può fare? Può andare a prendere tutti quei certificati medici e verificarli uno per uno con delle visite, con dei controlli dell'INPS, con dei controlli, lo può fare o no? Il presidente di RAP, che ha la competenza, ma intesa anche con l'assessorato, intanto sta modificando la pianta organica, perché la modifica alla pianta organica, al momento in cui il medico attribuisce l'inidoneità e conferisce un incarico di portierato a tutte queste persone, e pensi che RAP in un momento aveva anche 200 portieri. Allora la modifica alla pianta organica, in cui si dice che i portieri ne servono 50, nel momento in cui si supera il 50 si fa il licenziamento. Questo dovrebbe comportare una particolare situazione di attenzione rispetto al lavoratore, che quando ma invece andare proprio a contestare il certificato medico, a controllarlo, lei lo può fare? Cioè a dire uno c'ha 2 mesi? Non credo. Può fare un tentativo attraverso l'azienda sanitaria locale per vedere se si possono fare dei controlli rispetto a un sistema che è quello previsto dalla legge del medico competente al quale il lavoratore allora, si rivolge. Alziamo le mani. Posso suggerirle, a meno che la vostra autonomia speciale, anche in questo ovviamente vi isoli dal resto dell'ordinamento italiano, di suggerirle magari di mandarle un paio di normette che configurano chiaramente il potere suo, come che di chiunque sia alla testa di amministrazione pubblica, sì, di procedere proprio a indagini amministrative, anche rivolgendosi ufficialmente proprio alle aziende sanitarie di competenza a cui appartengono i medici certificatori. Sì, può farlo, le posso garantire che può farlo. No, ieri ci raccontava il commissario per la Calabria che ha cercato di introdurre questa norma per cui i medici che certificano questo tipo di certificati devono andare a rotazione proprio per evitare quelle incrostazioni che rimangano per anni, e i sindacati dei medici si sono opposti. Contrari. Si sono opposti, però Oscar, credo che abbiano fatto saltare questa cosa. Però quindi, voglio dire, perfetto, allora, cioè, la concatenazione di racconti fiabeschi, che insomma tutto bisogna capire, e di invocazione di incompetenza ordinamentale, nonché di opposizione sindacale, fa in modo che tutto resti come prima, perché questo è un problema da decenni sotto gli occhi di tutti. E infatti rimane, cari lavoratori privati, quando poi vi vengono a dire che non è vero che nel pubblico eccetera eccetera, ripeto, io non generalizzo, non ce l'ho con i dipendenti pubblici, è pieno di gente che vuole lavorare, fa benissimo e non ne può più di questo andazzo, però è un andazzo che invece di selezionare e premiare i migliori, vedi bonus merito nella scuola, vede troppi furbi, troppi, non ho detto che sono tutti o la maggioranza, troppi furbi avere un sistema che è complice per la loro furberia. Allora, se possono stare con noi il comandante Barbato a Milano, l'assessore Marino a Palermo, andiamo un attimo in pubblicità, ma ci sono tanti anche ascoltatori che pongono domande e riprendiamo tra pochissimo. 24 mattino, attenti a noi due. Allora, eccoci qui, ci sono tanti ascoltatori. C'è Bruno, ci chiama da Venezia. Buongiorno Bruno. Buongiorno, salve. Eccoci. Niente, io avevo ascoltato le vostre motivazioni di questa assenza di questo docente. Sì, sì. Ma in realtà spiegavo che tecnicamente, rientrando quel giorno, lui, io presumo che lui fosse in aspettativa congedo familiare, congedo per motivi non, familiari. Sì, ma i congedi non esistono, cioè tecnicamente esiste l'aspettativa per motivi di famiglia che comunque viene concessa al dirigente. Sì. E il motivo di questo rientro è perché l'aspettativa è senza retribuzione. Ah. E quindi, cioè, senza zero? Totalmente, cioè, proprio, totalmente. Proprio mancano tutti i requisiti anche di carriera, cioè uno è come se non, proprio non lavorasse. Sì. E quindi, rientrando il 23, ripristina lo stipendio, voglio dire, nel senso che è tutto legittimo, ecco, questo per un giorno, ma adesso ha richiesto un'altra aspettativa. La preside mica metteva in contestazione la legittimità, esatto, metteva in contestazione l'opportunità di un comportamento di questo genere. Questa è l'ordinaria amministrazione, lei va in una scuola in una mattina qualsiasi. Ma è proprio questo che noi ci siamo arresi a questa, tra virgolette, esatto, ordinaria amministrazione. È quell'alzare, è quel non si può fare nulla di fronte a un diritto acquisito che nessuno vuole come dire, abbattere. No? La cattedra è una mia proprietà, poi io non posso. Dal primo giorno lui ha accettato la messa in ruolo, malgrado l'impedimento. Lui la messa in ruolo l'ha accettata. Si prende la cattedra, sparisce, torna per ripristinare i soldi, se ne fotte della classe. Che a quel che punto aveva una supplente brava, che perde il suo diritto, perde la classe, e la classe perde il suo diritto alla formazione. E noi ci diciamo è tutto legittimo. Dovrebbe venire nelle scuole un giorno in anonimato. Infatti, e vedere veramente per conto mio sono atteggiamenti che dovrebbero ridurre gli italiani invece che a perdere tanto tempo tra le cazzate quotidiane della politica. Perché queste sono le ragioni per cui Bruno non c'è più lavora in questo ambito. Scusi, non lei capito. Perché ne sa, lavora in quest'ambito? Ah, io sono nell'ambito da 40 anni nell'ambito nella vista di colta di crude. Non vuole dire troppo per evitare ritorsioni. Va bene. Giuliano da Roma. Giuliano, buongiorno. Buongiorno e grazie per l'ospitalità. Lei. Sono un docente anch'io e condivido pienamente la posizione di Giannino. Il problema di fondo è questo: legge e giustizia non sono sinonimi. Già. Perché se il docente si è comportato in quel modo, è nel suo diritto che già, tutelando tutti non tutela nessuno. Però il problema di fondo è la figura del preside. Visto che oggi sono super manager, c'è la buona scuola, perché con i fondi di istituto non ha fatto una scelta rivoluzionaria e ha pagato quella docente supplente meritevole? Cosa vuol dire pagato? Questo non sappiamo se l'abbia fatto. Credo, se ha scritto la lettera al docente, dubito che abbia preso altrettanto decisioni rivoluzionarie. Però sa anche, mi scusi, sa anche da docente che il bonus è stato fatto valutando i risultati dell'anno scolastico alle nostre spalle. Qui stiamo parlando della nomina dell'anno scolastico che era appena cominciato a settembre rispetto a dicembre, quindi al di là di questo, ma se non voglio difendere la preside e non lo so. Però, poi al di là della questione economica, c'è tutto il danno. Proprio dice: ha tolto ai ragazzi una docente entusiasta che avevamo trovato con difficoltà. Adesso ne dobbiamo trovare un'altra perché la legge mi impedisce di richiamare una supplente se il docente entra in ritorna in ruolo per un solo giorno. Ne devo trovare un'altra. E siamo d'accordissimo. Il problema è che sono cose che parla più calcolate all'inizio dell'anno. Si fa tanto riforme di scuola. D'accordo, ma all'inizio dell'anno. Ma la dirigente come fa a sapere che uno chiede un'aspettativa? Si presenta, chiede un'aspettativa. Dirigente aveva la cattedra coperta. Però sono quei calcoli, sono quei rischi che si corrono, perché poi così nel tutelare tutti chi ci rimette è sempre l'utenza. Esatto, è la scuola per chi ci lavora e non la scuola per chi la frequenta. No, proprio sempre l'utenza. Vogliamo tornare per un attimo al comandante dei Vigili di Milano, Antonio Barbato, lo ringraziamo. Comandante Barbato, il rimetterci l'utenza, cioè, lei sa che i cittadini se la prendono con i vigili quando li incontrano per strada. E io da ieri dico, quando ve la prendete col vigile per strada, almeno tenete conto che quello è per strada, magari c'è un, certo, c'è un imbucato che sta in ufficio. Guardi, tenga presente questo, io le dico due cosine. Una riguarda il fatto che comunque una parte delle attività della polizia locale, perché giuridicamente hanno le funzioni per poterle fare, devono essere fatte dagli agenti comunque in ufficio. Voglio dire, le procedure sanzionatorie, il controllo degli atti, eccetera. Quindi una parte comunque starebbe in ufficio indipendentemente, anche se fosse sana. Detto ciò, noi ovviamente impieghiamo tutte queste persone nelle parti d'ufficio dove comunque dovremmo impiegarle. Ma altra questione invece che volevo puntualizzare, e quindi la cittadinanza è coperta, nel senso che viene negli uffici trova i vigili, nella videosorveglianza trova i vigili, il controllo del territorio viene fatto anche non solo operativamente in esterno, ma con tutte le 4.000 telecamere che abbiamo sul territorio, qualcuno deve vederle, certificare, denunciare, intervenire. E poi c'è invece il tema che dicevo prima, non è che noi dobbiamo assumere di più. Però il turnover è importante, perché se io continuo, le faccio un esempio, ho fatto un calcolo, noi siamo 3.026 in questo momento, il nostro organico è di 3.200, con il turnover che abbiamo adesso, nell'arco di 4 anni, io avrò 800 agenti che non potranno più effettuare una serie di servizi, altri che sono andati in pensione. Quindi le faccio solo l'esempio sulla pensione, io perderò 350 agenti. Ma anche lei, ecco, come l'assessore di Palermo che dice non posso controllare i certificati, lei li può controllare? Assolutamente, noi faremo sì, infatti. Assolutamente sì, assolutamente, assolutamente sì. Nel senso che adesso costituiamo anche una commissione, anche con un medico, e verificheremo posizione per posizione. Lei capirà che nel momento in cui dalla settimana prossima nessuno potrà più fare un orario fisso, tipo la mattina, il pomeriggio, che sono molto più comodi come orari, ma dovrà stare in ufficio mattina e pomeriggio, non potrà effettuare straordinari, qualcuno probabilmente verrà a bussare cassa volontariamente e ci dirà: io ho questa patologia, perché io non posso chiedergli questo, posso fare indagini amministrative. Quindi se ho un sospetto, se so che qualcuno invece di avere una patologia in qualche modo se l'ha inventata, ha trovato il medico o compiacente o che ha paura o che semplicemente vedendo qualcuno, permettetemi il termine, piangere o figli o mogli o parenti dispersi, o che magari si becca dei soldi, perché ci sono anche questi, magari si becca dei soldi, ci sono anche questi casi. Speriamo che non sia così, perché veramente però non è da escludere in alcuni casi, l'abbiamo visto in questi anni, sono successe cose di tutti i generi in questo paese. Però noi ci stiamo proprio attivando per fare in modo che garantiamo, controlliamo e garantiamo, certo, soprattutto perché se uno è malato, se uno è malato non può fare ore di straordinario, a mio avviso, perché si ha delle parziali. Ma ridotte, i diritti, comandante, nessuno li vuole. Guardi, toccare, comandante, da cittadino prima che da giornalista. È una commissione che non avrà soltanto il compito di controllare, punto, ma anche di garantire a coloro che invece, come le dicevo prima, perché la gente che è stato investito in servizio non può più effettuare, certo, di avere il suo diritto garantito, ma certo. Comandante, le chiedo di mettersi nei panni del cittadino e del giornalista. Aspetti, due giorni fa, da quando il Corriere ha tirato fuori questa cosa, noi facciamo il nostro mestiere, quindi due giorni fa chiamiamo il sottosegretario per la pubblica amministrazione Angelo Rughetti e diciamo: la politica che cosa ha da imparare? Che risposta ci può dare rispetto a fenomeni così ampi, cioè l'inidoneità così più ampia nella pubblica amministrazione che nel lavoro privato, la 104 quattro volte in proporzione media, con punte di 6 volte in più nel settore pubblico e nel lavoro privato? E Angelo Rughetti, sottosegretario, gliel'ha dato e risponde: vedrà, cara Radio 24 e caro Giannino, che entro fine febbraio, in attuazione della legge Madia, faremo il decreto delegato, appunto, sì, legislativo, in cui si interviene su tutto lo status del pubblico impiego, E metteremo l'obbligo per ogni branca della pubblica amministrazione a pubblicare online le percentuali sia della 104 che degli inidonei alle mansioni per cui eccetera eccetera, e con programmi con programmi pluriennali di rientro rispetto ai picchi più elevati della media. Bene, oggi il cittadino medio e il giornalista è costretto a dire che sul Messaggero c'è l'annuncio: il governo rinuncia al decreto delegato di riordino del pubblico impiego. Lei capisce che per il cittadino sono buoni messaggi, ecco, sono lei buoni messaggi. Capisce che la cosa dice: vabbè, ditecelo, non cambierà mai niente. Vogliamo sentire Emanuele da Fano, che li dà un po', poi torniamo dall'assessore Marino. Emanuele. Sì, buongiorno. Grazie. Ho sentito la trasmissione ieri mattina e stamattina. Secondo me il punto sono proprio i medici. Cioè, è scandaloso che vengano rilasciati certificati medici, evidentemente statisticamente in una quantità maggiore nel pubblico impiego rispetto ai privati, e che non ci siano controlli su quel lato. Controlli ci sono. Ad Agrigento, per esempio, sono medici finiti per le 104 facili nel mondo della scuola. Però, Emanuele, arriva uno da un medico e dice, come diceva il comandante: piango, sono depresso, ho avuto un problema, ho avuto una difficoltà, sono depresso, non ce la faccio. Come fa il medico ad accertare e a verificare lo stato di depressione di una persona? Non è facile, insomma, ci saranno dei canoni, ma non è così un dato, parametro numerico. Resta, perché i lavoratori privati lo fanno molto meno? Questa è la vera domanda. Perché lì sanno che c'è qualcuno che dopo un po' si dice: oh, guardiamoci negli occhi. Ecco, sì, nel pubblico oppure, no. Oscar, nelle piccole imprese con 5 dipendenti, forse ti dicono: amico mio, siamo in 5 dipendenti. È parte della risposta, certo. Mentre il pubblico tanto paga pantalone, il dirigente diventa compiacente e colluso, perché io ve la ce l'ho innanzitutto coi dirigenti. I capi in testa vengono a dirci: ma io cosa posso fare? Niente, signor assessore. Però, assessore Marino, noi non rinunciamo all'idea che lei possa fare qualcosa. Non è che vogliamo. Io posso, se mi fate parlare, io magari mi date la possibilità di replicare. Poi dica. Posso? Certo. Intanto bisogna chiarire una circostanza per la città di Palermo. La città di Palermo ha un'azienda municipalizzata interamente pubblica, che si chiama RAP, Risorse Ambiente Palermo, che ha il governo di tutto il sistema di raccolta dei rifiuti. Il consiglio d'amministrazione, che è questo competente a intervenire, l'assessore fa un controllo rispetto all'attività dell'azienda, no? Non è direttamente coinvolto. Il consiglio d'amministrazione di RAP, in continuità col vecchio, ha disposto, proprio in materia di controlli medici, una particolare attenzione rispetto al medico competente, il quale probabilmente, come a Milano, a Palermo non cambia nulla, va uno che piange o va uno che dice che ha un particolare malore, al momento gli conferisce subito un'idoneità, perché anche credo che sia competenza del medico, no? Non rischiare rispetto a un soggetto che potrebbe davvero stare male, no? Perché non tutti sono poi dei farabutti, non tutti sono dei fannulloni. Certo. Il risultato sono le cifre che vediamo. Il problema sono i controlli. Credo che sia un problema a livello nazionale e non soltanto a livello locale. Bisogna fare in modo che intanto i medici facciano bene il loro lavoro. Guardate che la differenza sostanziale qual è fra il pubblico e il privato? Che se nel privato un lavoratore scherza, perde il posto di lavoro. Nel pubblico, per poter licenziare qualcuno, e mi creda, io ho licenziato 20 persone quando ero in RAP, è difficilissimo, è quasi impossibile. Allora bisogna fare in modo però che il lavoratore, l'assessore che può fare su questo, no, perché no, Oscar le norme dice, ci sono perché anche lì le norme ci sono, ma è più difficile, è più difficile perché si rischia, perché è chiaro, si perdono voti, uno, due, il sindacato inizia a farti la campagna contro, tutte robe che ai politici e agli amministratori pubblici non piace fare. Punto, questa è la mia opinione. Le norme ci sono. Ci sono, però è più difficile. È più difficile licenziare nel pubblico. Se fai politica i voti li vuoi, questo è il punto. Va bene, dai, ci dobbiamo fermare. Ringraziamo l'assessore Sergio Marino e Antonio Barbato. Gianluca da Milano, domani ci teniamo il numero se vuole. Spiateci tutti. Spiateci tutti, non è male. Spiateci tutti. C'è chi spia e chi spia. Pochi spiano e molti spiano. Di molti che dicevano: bisognerebbe sapere tutto. Spiateci qua, c'è chi ci accontenta. Spiateci tutti, se ci spiate tra 5 minuti ci trovate al Bar del Sole. Ciao. Esatto.